Personalmente, lo sapete, io non sono esperto di teologia. E se da un lato me ne dispiaccio perché non c'è campo del sapere che non meriti di essere approfondito, da un altro me ne rallegro, soprattutto di questi giorni. Sono giorni questi in cui nei panni di un teologo proprio non vorrei essere. Pensate all'imbarazzo in cui devono trovarsi quei poveracci costretti per la prima volta nella storia della loro disciplina a fare i conti con il diritto di sciopero. Materia che più lontana dai loro interessi probabilmente non se la sarebbero mai potuta immaginare. Eppure, come si dice, non ci sono santi. La settimana testé trascorsa ha fatto registrare il primo caso di sciopero delle chiese di tutta l'età volgare. E non uno sciopero da niente, promosso da qualche frangia lunatica di quelle che sempre allignano ai margini delle istituzioni. Lo hanno indetto le massime autorità cristiane di Terra Santa. Prelati autorevoli, cioè, che operando proprio in quei luoghi dovrebbero rivestire posizioni di specialissima responsabilità. E un evento del genere non può non avere delle conseguenze teologicamente rilevanti. Io non sono un esperto, lo ripeto, ma un po' di catechismo l'ho masticato ai miei tempi. E ricordo benissimo che in certe circostanze la frequentazione delle chiese è obbligatoria, sotto pena delle più gravi sanzioni. Sì, lo so che ci sono delle esimenti, ma sono sicuro che con lo sciopero non hanno nulla a che fare. Lo sciopero delle ferrovie non esonera i pendolari dall'obbligo di presentarsi al lavoro e quello delle banche non proroga automaticamente la scadenza dei versamenti dovuti al fisco. E per cui pensate, per fare il più banale degli esempi, a cosa potrebbe succedere a un credente di quelle parti, il più e morigerato che riusciate a immaginare, che si presentasse davanti a San Pietro il giorno dopo quella scadenza di rotta. Mi spiace, figliuolo, si sentirebbe probabilmente dire, ma ieri non sei stato a messa, quindi... Ma c'era lo sciopero, ribatterebbe un pansioso aspirante beato. E no, non sappiamo nulla di scioperi quassù, replicherebbe severo il santo scuotendo la testa, e il poveraccio, nonostante la sua pietà e le sue virtù, rovinerebbe in quello che il padre Dante definiva con un gentile eufemismo il basso loco. Naturalmente mi potreste sempre rispondere che il Padre Eterno per definizione è più ragionevole dei suoi rappresentanti terreni, ma appunto questo è il problema. Io francamente non oso nemmeno immaginare cosa potrebbe pensare il Padre Eterno dei motivi per cui le autorità ecclesiastiche di Gerusalemme e dintorni hanno proclamato lo sciopero delle loro chiese. Lo hanno fatto, a quanto ho letto, per ventuzzare la provocazione del governo israeliano che ha permesso, o che permetterà, non ho capito bene, la costruzione di una moschea proprio di fianco alla Basilica dell'Annunciazione di Nazareth. E dove sta la provocazione? Di provocazione si sarebbe potuto parlare semmai se accanto a quella chiesa fosse stata progettata, non so, una discoteca o un luogo di pubblico peccato o magari un centro di diffusione dell'ateismo, ma una moschea. Viviamo in piena fase ecumenica. I massimi capi religiosi del mondo si sono più volte incontrati per lodare insieme il comune fattore. Le crociate sono un ricordo, anzi uno sbaglio di cui persino il Papa ci esorta a pentirci. In Palestina, e anche a Nazareth, la maggioranza della popolazione è musulmana. Che male può esserci nel volere che sorga un altro luogo di preghiera che venga incontro ai suoi bisogni spirituali? Dal punto di vista architettonico, la Basilica dell'Annunciazione, per venerabile che sia, non vanta pregi tali da escludere che un altro edificio le sorga accanto. Quindi, perché non una moschea? Oltretutto, come sicuramente saprete, la storia dell'Annunciazione è narrata anche nel Corano, nella sura della famiglia di Imran, versetti dal 37 al 43. E nulla quindi dovrebbe essere più comprensibile del desiderio di un musulmano di pregare nel luogo in cui, secondo una tradizione che accomuna entrambe le fedi, l'angelo del Signore, loro lo chiamano Jabril invece che Gabriel, ma non fa una gran differenza, recò a una stupefatta fanciulla di Nazareth quel fatidico annuncio. Ma che? I vescovi a Roma e a Gerusalemme hanno detto che era una provocazione, che proprio la vigilia del Giubileo la sola idea di vedere sorgere una moschea in quel luogo non la potevano neanche sopportare, e siccome a Gerusalemme e a Roma godono, come dire, di una certa quale influenza, sono riusciti a creare il caso. Adesso, anche se il povero Arafat, con tutte le gatte da pelare che si ritrova per conto suo, sta tentando una mediazione, tutti i musulmani di Palestina, moderati o integralisti, sono incazzati come belve. I rapporti tra le due comunità sono al livello più basso che si possa immaginare. Il governo israeliano, che occupa equanimamente le terre dei cristiani e quelle dei musulmani, può compiacersi di aver applicato un'altra volta la vecchia tattica del dividere per comandare. Tutto questo, lo ammetterete, fa nascere qualche dubbio sulla volontà ecumenica delle alte gerarchie ecclesiastiche. Una provocazione indubbiamente c'è stata, ma bisogna chiedersi ancora una volta chi ha provocato chi.